24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Oggi quasi un terzo del cibo prodotto per l'uomo viene perso o sprecato. Se si riuscisse a recuperare solo un quarto di questa massa di cibo, si potrebbero nutrire tutti gli affamati del mondo. Lei perché sta buttando queste melanzane? Perché è tutta merce invenduta, non abbiamo a chi darla. Lo spreco del cibo deve essere assolutamente combattuto. Forse dovremmo fare uno scatto, e lo scatto davvero è che dobbiamo fare prevenzione. È possibile fare in modo che i prodotti invenduti in prossimità della scadenza vengano distribuiti tra chi ha bisogno. La cultura dello scarto e del consumo illimitato non si concilia più in alcun modo con il futuro possibile, né con lo sviluppo economico. È questa la novità del nostro tempo. Uscire dalla crisi di questi anni vuol dire saper innovare e cambiare rotta. 9:11, Gregorio Fogliani, presidente di Qui Group, seconda società in Italia di buoni pasto, e presidente di Qui Foundation, che è responsabile del progetto Pasto Buono. Ecco, Qui Foundation è una onlus che si occupa della lotta agli sprechi alimentari. Come funziona esattamente? Funziona che in tutti, qualsiasi pubblico esercizio, bar, ristoranti, gastronomia dei supermercati, tutti i giorni hanno del cibo sano invenduto che viene oggi gettato nella spazzatura invece che donato alla povera gente nelle tavole di chi avrebbe bisogno. Ecco, dunque, quindi voi sfruttate in un certo senso la rete degli esercizi convenzionati con i vostri buoni pasto per dare cibo a chi ne ha bisogno. Insomma, i buoni pasto si trasformano in pasto buono per chi non se lo può permettere, così? Esatto, esattamente così, perché lei tenga presente che se io oggi le faccio un esempio, vado in una gastronomia di un supermercato, mi compro del cibo, me lo porto a casa e lo consumo. Questo stesso cibo, c'è una normativa che impedisce di donarlo, cioè se io voglio andare, un'associazione di volontariato va a ritirare questo cibo in un supermercato che chiude e lo vuole donare, oggi non lo può fare. Perché? Troppa burocrazia, una cosa troppo complessa? Sì, esatto. Ma chi lo impedisce? È la normativa, perché la normativa dice, di fatto, dice che devi, uno, avere un furgone coinventato che trasporti il cibo, due, avere un abbattitore di temperatura, tre, quello di andare poi a trovare un volontario che porti questo cibo. Quindi, senta Fogliani, ma chi dà il cibo, che responsabilità ha chi lo regala? Insomma, chi lo... Oggi non dovrebbe avere responsabilità, ma ce l'ha invece, appunto. Invece ce l'ha. Perché? Ce l'ha perché tu, cioè di fatto non è possibile donare il cibo che non è trattato con abbattitore di temperatura prima. Quindi serve una legge? Serve un cambio di normativa che poi, oltre al cambio di normativa che dica lo puoi donare, facilitare, semplificare tutto il processo e non mettere le condizioni, cioè gli esercenti e anche le gastronomie dei supermercati, di dire preferisco gettarlo così almeno non ho nessun problema. Ma non può avere dei vantaggi fiscali, per esempio, a darlo invece che a buttarlo? Assolutamente che potrebbe avere dei vantaggi fiscali. Lei tenga presente che il piccolo esercente del retail ha un vantaggio perché con gli studi di settore lei può dimostrare che quel cibo che lei ha donato non è un cibo, no, che ha fatto, diciamo, del nero, ma è un cibo che effettivamente è del cibo non consumato. Senta, in Francia, signor Fogliani, lei lo sa benissimo, c'è il reato di spreco e ci sono le multe per i grandi magazzini che non danno gli avanzi. Esatto. È quella la strada? Assolutamente sì, per me, perché adesso qua è proprio l'incontrario, qua è, oltre ad impedire che il cibo, cioè rischi il penale se casomai tu vuoi denare il cibo, perché è una legge da interpretare. Cosa vuol dire? A seconda di chi viene la interpreta questa legge. Invece bisogna fare una legge semplice e chiara che dica il cibo sano invenduto come lo posso consumare in casa. Vabbè, ma allora Fogliani, allora il vostro progetto non funziona, cioè che cosa fate voi se non si può fare, non potete raccogliere? Certo che lo facciamo. Lo facciamo come perché, fate? perché noi lo facciamo con quelli che oggi sono in queste condizioni, cioè con le associazioni caritatevoli che sono la Caritas, l'Associazione del Volontariato Italiano, la Croce Rossa e i locali che hanno l'abbattitore di temperatura. Ma lei tenga presente che noi oggi facciamo circa 300.000 pasti, ne potremmo fare 7 milioni di pasti, perché c'è qualsiasi esercizio, c'è del cibo sano. Cioè, quindi mi faccia capire bene, voi prendete questo cibo che invece dovrebbe essere buttato via, questo qua, no? Sì, noi lo mettiamo in collegamento, chi vuole donare con chi ha bisogno di ricevere questo. Ah, voi fate solo un lavoro solo di... Solo per il commerciale, esatto, sì, assolutamente. Cioè, commerciale cosa significa? Li mettete vuol in contatto? Vuol dire che io individuo il locale vicino a una mensa della Caritas, sì, per esempio, o vari locali, e li metto in contatto per far sì che... la gastronomia doni questo cibo E voi cosa fate? A parte metterli in contatto, fate un lavoro anche voi o no? No, noi il lavoro che facciamo è questo, è il discorso di dargli un'assistenza di avviamento. Ce lo chiedono proprio di donarlo. Sì, ma in quali città siete? Mi si chiude il cuore, mi dicono tanti, perché devo gettare nella spazzatura, inquino, e in più io, siccome non lo voglio gettare perché i miei genitori mi hanno insegnato di non gettare niente, ci troviamo nelle tavole del cibo riciclato. Ma in quale città voi operate? Adesso a Palermo, Firenze, Milano, Roma, Genova, Roma tantissimo. E tenga presente un'altra cosa che è importante: sono i migliori locali che vogliono donare questo cibo. Certo. Senta, ma avete provato mai a coinvolgere la politica in questa vostra consapevolezza di avere bisogno di una legge che consenta degli snellimenti? Assolutamente, in questa... guardi, io ho partecipato al premio Carli, no? Che c'era mezzo governo lì, e mi si è avvicinato anche il ministro, che dice: ma è una cosa assurda, no, questa cosa qua, no? Il ministro Lorenzini. Ma insomma, se lei avesse una domanda da fare a Galletti, cosa le chiederebbe? Ministro Galletti, voglio fare una domanda precisa: perché non è possibile, senza rischiare il penale, donare del cibo sano invenduto? Ecco, un ascoltatore ci suggerisce di intervistare il professor Segre su questo tema, che è il più grande esperto, non l'abbiamo già fatto tante volte, cerchiamo di allargare la platea dei nostri ascoltatori. 800 24 00 24, il numero verde 349 238 6666 per gli sms. E allora, siamo curiosi di sapere se avete qualcosa da suggerirci, però intanto Gianluca Galletti, che è ministro dell'Ambiente, ha sentito la domanda molto precisa del dottor Fogliani. Cosa risponde? È molto precisa e devo dire molto sensata anche. Abbiamo una normativa troppo complessa, sia dal punto di vista amministrativo che fiscale, quindi va semplificata. Io sono assolutamente d'accordo per semplificare la norma e renderla tecnicamente applicabile, quotidianamente applicabile, e interverremo su questo con un disegno di legge. Il 50% del cibo commestibile in Europa viene sprecato, cioè 8 miliardi di euro bruciati nel 2014. Mi sembra che sono tanti, eh? Sono dei dati impressionanti, soprattutto se pensiamo ad alcuni paradossi. Il paradosso è che mentre noi buttiamo via il cibo, ci sono un miliardo di persone che soffre di denutrizione, esatto, nel mondo. Quindi questo è un problema, oltre che economico, è uno squilibrio, di tipo morale. È uno squilibrio inaccettabile. I sistemi economici e i sistemi sociali stanno in piedi quando non ci sono degli squilibri troppo grossi. Esatto. Questo squilibrio è troppo grosso per poter essere sopportato dal pianeta. La Francia è corsa ai ripari. Il 23 maggio del 2015 l'Assemblea Nazionale Francese ha approvato all'unanimità una legge che punisce duramente i punti vendita della grande distribuzione se non donano i prodotti in scadenza alle associazioni e agli enti che si occupano di sfamare i meno abbienti. Si rischia una multa salata che può raggiungere addirittura 75.000 euro e perfino il carcere. È un punto di partenza che le interessa? Io vorrei una norma più educativa e meno sanzionatoria. Perché parto dal presupposto, ed è questo che ho riscontrato in questo primo anno e mezzo di gestione del mio ministero, ho riscontrato una grandissima sensibilità da parte dei cittadini, da parte degli operatori economici, da parte della società civile in generale su questo tema. Io credo che noi prima di tutto gli dobbiamo dare gli strumenti per potersi comportare bene. Cioè lei dice che prima questa, della sanzione. Lei dice che questa è una legge troppo dura come nella sua complessità. Io credo poco nella sanzione educativa, credo nell'educazione dei cittadini. Non a caso noi su questi temi stiamo lanciando delle campagne informative molto mirate, lo stiamo facendo ne presenteremo una il 13 di luglio sulla raccolta differenziata che riguarda anche lo spreco del cibo, abbiamo fatto delle linee guida all'interno da dare agli insegnanti per insegnarlo nella scuola. Naturale, quindi scuola credo molto nella funzione educativa, credo molto poco nella sanzione, un po' perché poi queste sanzioni dopo bisogna farle rispettare, certo. E non sempre è facile, no? Ma la legge che lei ha in testa cosa può prevedere? Può prevedere delle semplificazioni di tipo fiscale e amministrativo per chi decide di combattere lo spreco alimentare. Cioè il signor Fogliani che facilitazione avrà nel fare il suo lavoro? Guarda, io penso ad esempio ai supermercati, no? Sì. Che hanno i prodotti in scadenza. Sì. Oggi è più facile per loro buttarli via che donarli. È molto più facile. E allora noi gli dobbiamo rendere molto semplice donarli, donarli a Fogliani che con la sua associazione li porta a chi ne ha bisogno. È un problema economico, morale e ambientale, è molto forte. Sì. Perché se io le dico i danni all'ambiente di questa montagna di cibo che noi buttiamo via. Certo, perché enorme. Per produrre si consuma terreno. Pensi lei che il 30% del terreno coltivabile nel mondo è sfruttato per cibo che viene poi sprecato, il 30%. Ma pensi alla quantità d'acqua, io sono rimasto veramente stupito nel leggere questi dati, perché poi neanche un ministro se ne rende conto, certo. Senza averne le cognizioni tecniche, no? 250 mila miliardi di litri d'acqua per produrre cibo che non mangeremo, ma è una roba, 250 mila miliardi allora... di litri d'acqua, considerando che l'acqua per i nostri figli, nipoti, pronipoti, sarà un problema la scarsità dell'acqua. Ma allora dal punto di vista morale questa roba è inaccettabile. Lei, ministro Galletti, che fa il ministro e non il critico e quindi deve risolverli i problemi, adesso ne ha preso coscienza. Io ho già preso l'impegno di presentare entro la fine dell'anno un disegno di legge al Parlamento che tenterà di risolvere questo problema, tenterà di attenuare, non voglio affrontare, nessuno ha la bacchetta magica in mano. Quindi lei a Mattarella, che nel discorso l'altro giorno all'Expo ha incitato e si è indignato, ha detto bellissima l'Expo, il problema è proprio il cibo che viene buttato, perché questa è una vergogna che non si può accettare. Allora a Mattarella lei dice stia tranquillo che fra poco dovrà firmare una legge. Io la proporrò al Parlamento. Da parte della società su questo tema c'è molta sensibilità, grazie anche all'Expo, all'Expo, per perché noi dall'Expo abbiamo mandato questo segnale fortissimo. La carta di Milano, molti dicono serve anche questa sono roba Allora noi la seguiremo, ci risentiremo anche prima immagino su altri temi, ma sicuramente su questo problema teniamo un faro acceso. Mario, l'Expo forse su questo tema ha acceso davvero un faro che può essere utile, perché questo problema è un problema davvero grosso della società, una cosa enorme. Della società moderna, i numeri sono impressionanti. Sì, e secondo me c'è anche una dissoluzione del costume, non voglio fare retorica, però non so se molti ascoltatori sicuramente, anche qua a Pietrangeli a te è capitato, a casa il pane non si buttava mai. Anche se era in eccesso. Si conserva tuttora, non lo facciamo, lo si grattugia, lo si riutilizza, eccetera, ma non si butta mai, perché è peccato. Ma qui stiamo parlando di un'altra cosa, stiamo parlando perché del fatto peccato, che invece capito? Che buttare si può distribuire. Certo, però ma le leggi lo rendono molto difficile. Si può distribuire perché vi è un enorme eccesso e perché vi era e vi è ancora il fatto che si butta. In realtà non bisogna buttare ciò che si può ridistribuire. Però qui stiamo parlando della distribuzione, la grande distribuzione ma ha dei problemi diversi da quelli della famiglia. No, ma è la stessa cosa, è uguale, è una questione culturale, guarda, enorme, credimi, mi colpisce tanto a me. E il problema sono le leggi. le regole, certo, perché 30 anni fa, 40 anni fa, nella grande distribuzione, e io ho il ricordo preciso di quello che accadeva in Sicilia con le arance, certo, non c'era questo passaggio obbligato delle leggi e delle regole che poi portano al macero, certo, ma appunto venivano immediatamente regalate, un po' come fanno i fornai, esatto, come facevano i fornai, come succedeva ovunque ci fosse la società più semplificata, lo spaccio di generi alimentari venivano regalati. Certo. Maria da Milano, buongiorno signora. Buongiorno. Ah, Mara, no, scusi. Mara, sì, fa niente. No, mi scusi. Dica. Me volevo intervenire perché sì, per 3 anni ho avuto un piccolo negozio di alimentari, avevo anche gastronomia, e il problema già allora io lo sentivo, parlo dal 2009 al 2012, però c'erano dei vincoli fortissimi. Adesso io ho seguito la trasmissione da pochissimo, sto seguendo la trasmissione da poco, quindi magari il problema è già stato affrontato. Vabbè, l'ha preso però c'erano in corso. Dei vincoli, sì, della ASL, no, e dei infatti, vincoli della grande Guardia di Finanza, ma fortissimi, sì, nel sì, senso che non poteva uscire una briciola di pane dal negozio che non fosse scontrinato. Io alla sera avanzavo il pane, lo mettevo da parte, il giorno dopo lo portavo a un rifugio di bene, animali, certo, che avevamo che vicino il pane, certo. Sì, però ragazzi, lo facevo lo faceva di quasi di nascosto, certo, infatti, certo, questo è il problema. Certo che lo facevo di nascosto. E tutto ciò, appunto, quello che poteva essere quasi scaduto, io non potevo donarlo, perché assolutamente, cioè dovevo era impossibile donarlo. E infatti è quello che stiamo cercando di dire, anche con il ministro, ho sentito in Francia ha fatto una legge anche molto molto dura. C'è Gregorio, grazie signora Mara, c'è Gregorio da Taranto che ci dice: un imprenditore torinese ha costruito il sito lastminutesottocasa.it per la gestione dei prodotti in scadenza da parte dei supermercati mediante un'applicazione per smartphone. Ecco, non so come se la cava con la legge, però può darsi che sia una soluzione interessante. Intanto abbiamo al telefono Giovanni Cobolli Gigli, presidente di Federdistribuzione, la più importante organizzazione in Italia che rappresenta appunto le imprese della distribuzione moderna, che sono il punto poi centrale. Il ministro Galletti ha sentito, ha detto che farà la sua proposta di legge. Lei ha dei suggerimenti da dare dal punto di vista della sua esperienza? Io penso che debbano essere semplificate tutte le procedure. Questo che mi in sembra questo chiaro, momento sì, ci sono, e sono procedure che implicano del lavoro che, noti bene, non faremmo se buttassimo via la merce, quindi certo, questo è poco incentivante. E poi, fatto fondamentale, siccome questa merce noi la doniamo e non diventa più rifiuto, ottenere un abbattimento dalla tassa di rifiuti comunale in funzione della merce che doniamo alle ONLUS. Quindi incidere adesso, sulla fiscalità, insomma. E quindi questo noi lo vivremo come un incentivo. Quante imprese rappresentate? Una quarantina di marchi, sia del settore alimentare che del settore non alimentare. Facciamo in totale 60 miliardi di fatturato, che è il 50% di tutto il fatturato della distribuzione moderna organizzata. Senta, ogni anno mi sembra che la vostra associazione presenta un bilancio di sostenibilità del settore. Sì, esattamente signora. Perché? Perché cresce la consapevolezza dell'impatto sociale e ambientale? Cresce la consapevolezza e le nostre aziende partecipano sempre più con maggiore impegno, e evidentemente rivolgendosi a quelli che sono gli stakeholder più importanti, certo, i consumatori, i lavoratori, i fornitori e così via. Ma noi raggruppiamo il lavoro che fanno le nostre aziende per capitoli, cercando di far vedere come la sostenibilità, cioè fare l'offerta giusta, qualità giusta, prezzo giusto, con ambienti corretti, senza consumi particolari di energia e così via, sia una regola che si è data alla distribuzione moderna organizzata. Dottor Coboldi Gigli, ma quante aziende hanno programmi specifici di ridistribuzione del cibo in eccesso, quello che sarebbe buttato via? Nel nostro settore alimentare praticamente tutte le nostre aziende in quantità diverse fanno donazioni alimentari, evidentemente con una serie di complicazioni, perché la situazione attuale è un sistema burocratico. È una legge che mette molti paletti e non incentiva a donare il cibo, ecco. Lei dice esattamente quello che è la verità. Ecco. Mentre invece noi lo facciamo, in totale la distribuzione moderna organizzata mette a disposizione delle ONLUS 60.000 tonnellate di cibo, che equivalgono sì, a 200.000 pasti all'anno. In Italia? È chiaro, in Italia, in Italia. È chiaro che, essendo aiutati, questi 60.000 possono raddoppiare o triplicare, certo, tranquillamente. Senta, ancora due cose. La nuova legge francese che prevede il reato di spreco, e per questo reato di spreco prevede delle multe anche molto serie fino al penale per i grandi magazzini, potrebbe essere una soluzione secondo lei o no per l'Italia? No, è una soluzione ideologica, ma non è una soluzione pratica. In primo luogo bisogna tenere conto che noi forniamo merce a delle onlus che hanno una capacità di cucinare i prodotti che è limitata, quindi se noi gli dessimo tutta la nostra merce, le onlus ne butterebbero via la metà. Sì. In secondo luogo, un po' di spreco ci sarà sempre, ma sarà limitato. Teniamo in considerazione però una cosa, che il totale degli sprechi, la distribuzione genera il 13% del totale degli sprechi, il settore primario, cioè l'agricoltura, il 39%, la trasformazione il 3% e la ristorazione il 3%. Allora, se interveniamo soltanto sulla distribuzione, che è quella su cui si può intervenire prima e più facilmente, affrontiamo il problema, ma non lo risolviamo. Ecco, Anna ci scrive e ci prega di ricordare che il Banco Alimentare raccoglie in Italia il 41% delle eccedenze. Noi lo diciamo e lo ricordiamo. Pubblicità. Mix 24. Io vengo dalla luna che il cielo vi attraversa e trovo inopportuna la paura per una cultura diversa. Chi su di me riversa la sua follia perversa, arriva al punto che quando mi vede sterza vuole mettermi sotto sto signor rotto che si fa vanto del santo attaccato sul cruscotto. Non ha capito che sono disposto a stare sotto solamente quando fotto. Torna al tuo paese, sei diverso. Impossibile, vengo dall'universo. La rotta perso che vuoi che ti dica. Oggi come la Cristoforetti, torni dalla luna? Perché capita ogni 200 o 300 anni, capita solamente di notte ed è un privilegio quando capita, ed è capitato stamattina. E non una sola persona, non due, ma tanti ne sono caduti giù dalla luna. E tutti questi tanti hanno regolarmente preso, pagato e vidimato il biglietto della metropolitana. Hanno attraversato i sotterranei di tutta Roma. Hanno voluto provare tutte le corse, uomini e donne, piovuti dalla luna, hanno provato l'ebbrezza dell'affollata solitudine, hanno provato lo stordimento della vita ordinaria, l'abitudine di circolare nell'allevamento di un'esistenza vissuta in superficie senza però avere mai un cielo dentro. E gli uomini e le donne, piovute dalla luna, hanno portato a tutti il lume di un pallore dolce e struggente, ma pieno di un mattino pazzo con la musica di Caparezza, sceso appunto dalla luna. Io non sono nero, io non sono bianco, io non sono attivo, io non sono stanco, io non provengo da nazione alcuna, io sì, io vengo dalla luna, io non sono sano, io non sono pazzo, io non sono vero. Mario, quali sono le notizie che bollono nella tua pentola? Un sacco di roba interessante stavamo. Allora, Treasure, perché? Perché comunque insomma noi con la Russia ci abbiamo un bel tesoretto, un miliardo alle sanzioni, poi ci sono i consumi diretti e indiretti, in realtà i mercati Russia che in si Italia, perdono oltre la giustamente oggi il Sole 24 ore ci apriva, secondo me è un tema molto grande, parliamo di un paio, 2-3 miliardi insomma alla fine, sono le stime, possono anche variare a seconda di come li prendi, però è tanta ciccia. E insomma volevo sollecitare in realtà appendere un quadro su questo chiodo con voi, cioè cosa ne pensi tu Giovanni? No, io penso che assolutamente queste sanzioni non hanno senso, danneggiano solo noi. Tra l'altro le esportazioni degli Stati Uniti verso la Russia sono aumentate molto in questo periodo, che è abbastanza comico, diciamo. Noi non possiamo più esportare, loro aumentano, non lo so. Pietrangelo? È stata conseguenza della sudditanza totale che l'Italia ha nei confronti dei cosiddetti alleati, che ovviamente hanno soltanto l'interesse di salvaguardare loro stessi e non certamente l'Italia, e quindi privando l'Italia del grande commercio con la Russia hanno di fatto impoverito l'economia italiana, e la responsabilità spiace dirlo, è innanzitutto del signor Renzi, che dovrebbe essere meno accondiscendente rispetto agli americani e a quello che gli dicono di fare. Però con Putin Renzi ha, come dire, ha aperto un po'. Ha aperto, sì, questo è da dire. Poi sempre all'italiana, no? Noi siamo con tutti e con nessuno alla fine. Sì. Vogliamo anche sottolineare il fatto che c'è tutta un'azione diplomatica parallela, giusto per completare il quadro, diciamo. Quindi c'è questo aspetto delle sanzioni, in realtà poi si lega al discorso sul nuovi assetti geopolitici, sul fatto che la politica sta andando tutta ad est. Avete visto come Obama ha premuto durante il G7 per avere più sanzioni, c'è la minaccia, diciamo così, di un ritorno dello scontro missilistico, quantomeno sul piano della deterrenza, e contemporaneamente Putin ancora una volta, guarda come si è ricreato un asse, è andato dal Papa, come accadde quando fermò i bombardamenti americani annunciati sulla Siria, su Assad, e ancora una volta ha cercato un asse con l'Italia, ha visto Renzi, Berlusconi. Insomma, è un risico nel quale noi siamo dentro, però inconsapevolmente. Ma sui due problemi che abbiamo noi, cioè l'immigrazione e la Libia, noi siamo soli rispetto a questo, non abbiamo neanche la guida per risolvere il problema. Salamino. Se Roma piange, manco si può dire che il governo rida. Ieri Matteo Renzi è stato battuto per 3 volte al Senato. La maggioranza è sempre più risicata e Denis Verdini, dato in uscita da Forza Italia, tarda ad arrivare. Allora, la situazione. 20 senatori del Partito Democratico chiedono delle modifiche al disegno di legge sulla scuola e ci sono poi ben 3 casi irrisolti che se ne stanno silenti, prossimi a scoppiare. Il caso Caramineo, cioè il centro raccolta immigrati, che trascina con sé il sottosegretario Giuseppe Castiglione. Quindi il recente caso di Antonio Azzolini, su cui la Procura di Trani ha chiesto al Senato l'arresto in conseguenza del crack nella casa di cura Provvidenza. E il terzo caso sullo sfondo, ma pur sempre risolto, è quello di Vincenzo De Luca in Campania, senza dire che tutto il pittoresco meridionale, tutto da Crocetta De Magistris, marchia l'attuale stagione renziana, per arrivare dunque a Roma, che piange, ma proprio piange. E se Ignazio Marino, il sindaco, fa il segno di vittoria, bisogna appunto ricordargli che cosa è veramente Roma. Magari fosse solo Mafia Capitale il problema. Il problema è l'inconsistenza politica di questa amministrazione e dunque ancora una volta la società dei magna magna, se magno io magni pure tu. La vera mafia scrive i pizzini, a noi ci piace telefona. Astia, porca la miseriaccia. Intanto, a proposito del tema che abbiamo trattato oggi, continuano ad arrivarci tanti sms, ne leggo uno per tutti. L'esportazione di latticini e derivati dalla Svizzera verso la Russia sono cresciute del 400% perché non partecipano all'embargo. Com'è? E quindi la Russia è dell'Europa. Chi attacca la Russia, anche solo economicamente, attacca tutti noi. Come le famose mele del Trentino che non possono più arrivare in Russia, adesso i russi le comprano in Polonia. Non sono del Trentino, ma sempre mele sono. Le nostre restano lì. Sara Tardelli. Il mondo scoppierà, le stelle scoppieranno, il cielo scoppierà, i buoni rideranno e i cattivi piangeranno. Io speriamo che me la cavo. La scuola dovrebbe servire a questo, formare donne e uomini perché possano cavarsela nella vita. E Cesare Catà, un insegnante del liceo di scienze umane di Fermo, ha assegnato i compiti delle vacanze ai suoi studenti, che io giro a voi, perché secondo me potrebbero essere molto utili anche se la scuola è finita da anni. Cosa dice Cesare? Al mattino andate a camminare in totale solitudine e pensate alle cose che amate di più nella vita. Sentitevi felici. Leggete più che potete, ma non perché dovete, ma per sentirvi liberi come rondini. Se vi sentite tristi o spaventati, non vi preoccupate. L'estate, come tutte le cose meravigliose, mette in subbuglio l'anima. E provate a scrivere un diario per descrivere il vostro stato. Pensate alle nuove parole imparate. Più cose potete dire e più cose potete pensare. E per finire, fate i bravi. E c'è chi è stato promosso, c'è chi è stato bocciato, chi non ha letto la commedia ed è uscito dal gioco. Ma quelli che ha studiato si sono laureati dopo tanti anni adesso. Proviamo. Sono disoccupato. Proviamo col canzoniere, Pietrangelo, vediamo un po'. Sta nascendo solo adesso questa terra della sera. Quest'Occidente diverrà, oltre l'Occidente e l'Oriente, per tramite di ciò che è europeo, il luogo del futuro coerente col destino. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Speriamo di ricevere qualche telefonata. E intanto una bolla ancora, Mario? Ma sì, dai. Questa l'abbiamo scelta in regia stamattina. Tutti contenti. Con Ale, vero Ale? Sono Funk 48, anzi Funk 48 dovrebbe essere, ma non lo so, vabbè. Comunque suonano bene, senti. Oh, e occhio al petrolio. Perché che fa il petrolio? Perché guarda, è il gioco geopolitico più bello che c'è. E anche brutto, se vuoi. Insomma, tutti erano concentrati la scorsa settimana sull'Arabia Saudita dal vertice dell'OPEC, e che insomma ha confermato quello che avevamo un po' visto tutti e detto qua anche a Mix 24, cioè che la produzione i sauditi la attesteranno a 10.3 milioni di barili al giorno, e naturalmente tutto questo fa leva al ribasso sul prezzo. Però la vera novità strategica è l'Iran. Qua Pietrangelo dovrebbe saperne anche lui abbastanza, perché l'Iran ha deciso di rientrare nel grande gioco dell'oro nero, punta a produrre 5 milioni di barili nei prossimi 5 anni, ha programmato, almeno a parole per ora, 20 miliardi di investimenti nelle infrastrutture petrolifere, e soprattutto ha detto che non chiederà il permesso ai partner dell'OPEC per rientrare in questo gioco come vuole. Secondo me stiamo per entrare in un'altra fase ancora di questa storia fatta di pozzi, trivellazioni e grande politica. Certo, che saltano tutti così, i cartelli. Pensi che sia il così? Il segreto è sempre la decisione. Chi ha sovranità decide, e chi decide può stabilire perfino nuove regole nel gioco. E le vedremo. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Pubblicità. Mix 24. Abbiamo Matteo da Treviso. Matteo, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, ha indovinato il nostro canzoniere? L'aiuto di Buttafuoco è stato essenziale. Ah, sì? Il detto di Anassimandro. Giusto! Giusto, giusto. Che fa di bello? Io sono un agricoltore. Ha già vinto il canzoniere un'altra volta? Sì. Infatti ho detto alla regia: guarda che io l'ho già vinto l'altra settimana. Qua siamo proprio a ripetizione. Sta aprendo una libreria. No, ma questo qua era l'aiuto che è stato fondamentale, quindi va bene. È stato molto, molto piacevole. Grazie. Alla prossima volta, allora. Grazie. Grazie. Grazie mille, Sale. Pietrangelo Salamino. In principio furono i responsabili, erano quelli che da sinistra passavano a destra tra le braccia di Silvio Berlusconi. Il più responsabile di tutti, lo ricorderete, era Mimmo Scilipoti. Ebbe a patire il crucifige dei crucifige, fu sputacchiato, deriso, inviso a tutti, diventò un aggettivo, e scilipotiano fu peggio che peste. Adesso invece ci sono i neoresponsabili, perché la trasmigrazione procede al contrario e da destra si va verso sinistra, abbandonando Berlusconi per soccorrere Matteo Renzi. Lo scilipotismo dunque diventa nell'esito un profumo laddove il metodo sembrava pratica di letame. E in attesa di un appello, ne parlavamo ieri, l'appello degli intellettuali di centrodestra solleciti a sostenere le riforme di Renzi, Denis Verdini, che già fu comunque un allenatore di Renzi, mette a punto l'operazione Neoresponsabili. E se Sandro Bondi e Manuela Repetti sono pronti a votare come lui, e cioè con Renzi ma non con lui, lo scilipoti di oggi, che di certo non pagherà pegno, che anzi incontrerà il lavacro che lo profumerà per sempre, stante le indiscrezioni di oggi, è niente meno che, niente popò di meno che, nient'altro che... Sono stato eletto senatore, anche perché di fame si muore. Poi Crozza e Antonio Razzi. E ora sono anche famoso con Renzi. Caro amico, te lo dico da amico. E vabbè. Ah, questo è carino. Dai. Vai con una bolla ancora, abbiamo il tempo. Sì. Oh. Cause you're always trying to get ahead of life. Baby, when you go, dovreste vederli in regia. Vederle. Vederle le donne di X24. Mamma mia, che tutte cose scatenate a ballare. Sono anche gli uomini, comunque. Sono seduti. Non li guardiamo. Sono seduti. Non è che ora è obbligatorio. Cioè, ognuno guarda quello che vuole. Almeno fate, quello. Fate sentire la base poco musicale ai nostri ascoltatori. Dai. Vai. Questa è Headlights, è un paio di cronache digitali. Per dire cosa? È un paio di cronache digitali interessanti. Allora, Elon Musk, che è il creatore di Tesla e di SpaceX, Tesla fa le auto elettriche più belle del mondo, sono una cosa meravigliosa. SpaceX fa le missioni spaziali più innovative, è il caso di dire, fanno il razzo che torna giù col serbatoio. E insomma, questo signore vuole lanciare 4.000 satelliti nello spazio. Secondo te che cosa vuol farci? Internet. Sì. Sì, vuol farci internet, e sarebbe una grossa sfida ovviamente agli operatori di TLC che hanno lanciato i loro satelliti. Visionario in fondo come chi ha creato Spotify, ha trovato un mercato che Apple aveva snobbato con Steve Jobs all'inizio, perché pensava che nessuno noleggiasse la musica ma che la volesse acquistare. Invece è successo il contrario. Ora ci sarà il lancio di Apple Music, e sarà una battaglia durissima che vale veramente miliardi di dollari. Spotify si sta attrezzando, ha fatto un ultimo round di finanziamento. Vabbè, sarà un bel mezzo. Ieri, da 526 milioni, la valutazione di Spotify è 8.5 miliardi di dollari, ha un vantaggio competitivo in quel tipo di tecnologia, ma io sono sicuro che Apple gli darà grande filo da torcere. Va bene, lo vedremo. Fa l'aggiornamento automatico su tutti i telefonini dispersi in tutto il mondo, cioè lo è una roba enorme. È molto probabile. Senti, Marina Milone, qual è la storia che raccontiamo oggi dopo il giornale radio? Sì, Giovanni, oggi è l'anniversario della morte di un grande leader politico della nostra storia, Enrico Berlinguer. E insieme con Emanuele Macaluso, politico e amico di lunga data di Berlinguer, raccontiamo la sua storia e cerchiamo di capire l'eredità di questo grande protagonista. Bene, dopo il giornale radio, la vita di Enrico Berlinguer. Prima della pubblicità, Anna e Marco di Lucio Dalla. Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa. Se chiudi gli occhi lei lo sa, stella di periferia. Anna con le amiche, Anna che vorrebbe andar via. Marco grosse scarpe, poca carne, Marco cuore in allarme, con sua madre una sorella, poca vita, sempre quella,